siamo oggi qui nelle strade di Bologna, stiamo adesso attraversando i viali e siamo qui per dire che Salvini, la Lega, qualsiasi opzione xenofoba, razzista, nazionalista in questa città di Bologna non può avere piede. Siamo tanti, siamo gioiosi e determinati a dire no a questo tentativo di ricomporre la destra attorno a Matteo Salvini.